Tante volte abbiamo detto che per noi cultura europea è fatta dalle storie, dall'incontro, dal confronto, dalle contaminazioni. Ci sono storie, persone che ci piace raccontare, perché anche grazie al loro lavoro si riesce a raccontare meglio l'Europa. La storia di oggi parte da una ringa, o meglio parte da un piatto tipico svedese, la ringa dal gusto acido, un piatto tosto anche, un piatto così difficile da mangiare, però la cultura è fatta anche di gusti strani. Questa aringa per vari motivi, alcuni proprio così di origine anche difesa della pesca, altre per la tradizione, oppure perché si parla di diossina, insomma questo piatto ha rischiato di scomparire. E c'è una persona, un europarlamentare svedese però di origine italiana, che si sta battendo da tanto per difendere questo piatto tipico. Non è ovviamente l'unica sua preoccupazione, perché lei anche da anni si batte per portare quello che è il gusto italiano, anche fare conoscere il gusto e la cultura italiana proprio in Svezia. Diamo il benvenuto all'onorevole Anna Maria Corazza. Buongiorno Corazza. Buongiorno da Stoccolma. Buongiorno da Stoccolma, già la nostra invidia. la storia ovviamente fa sorridere, no? Di primo acchito, dietro invece c'è tutto un lavoro che adesso andremo a conoscere bene. Lei cosa fa intanto in Svezia? Ci può fare un riassunto della sua storia? Perché come sempre sono storie che hanno radici bizzarre. Io sono arrivata qui direttamente da Sarajevo dopo la guerra dei Balcani. Sì. Per amore, ho sposato uno svedese e poi ho creato una società per portare prodotti tipici in Svezia, perché io vengo dalla cultura del parmigiano. E quindi ho imparato che, come per noi è così importante, noi parmigiani, noi emiliani, noi italiani, la tradizione gastronomica, anche qui mi batto per loro, perché per loro la linea fermentata è come per me il parmigiano, appartiene alla storia, alla tradizione locale. E quindi penso che l'Europa si costruisca con rispetto delle tradizioni diverse, e che il cibo sicuramente, almeno per me, è importantissimo come identità culturale. E lei ha partecipato in Svezia alle elezioni europee, quelle del 2900, come candidata del Partito Moderato. Aveva già fatto attività politica anche in Italia? È stata la sua prima esperienza? No, in Italia non ho mai fatto attività politica, perché io ho lavorato con l'ONU, con l'Unione Europea, nella guerra dei Balcani. Però arrivata qui, anche perché qui la politica è un po' diversa che in Italia, mi sono impegnata soprattutto per portare più... fare più ponti tra la Svezia e il resto dell'Unione Europea, l'Unione Europea e la Svezia, perché per gli svedesi non è ovvio come gli italiani essere pro-europei, perché non hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, non hanno avuto gli stessi problemi di pace, di sicurezza. E quindi a me piace essere parlamentare europea, sono fiera di aver mantenuto il passaporto italiano, essere eletta in Svezia. Sono stata eletta con 86.000 preferenze, quindi direttamente dal popolo svedese, che mi riempie di gioia. Perché mi sento un po' in questo momento in cui c'è così tanta retorica nord-sud, sud-nord, sento una responsabilità ancora più grande a creare ponti. Certo, è un ponte che si può creare anche partendo dalla ringa. Questo piatto tipico, che è difficile da descrivere, da far immaginare, vero, a chi non l'ha mai visto, o soprattutto forse annusato, perché credo che sia proprio l'odore la caratteristica primaria di questo piatto. Sì, perché è fermentato. Mm-hmm. È come un gorgonzola moltiplicato per un milione. Ecco, Corazza, adesso a noi ce lo può dire, ma a lei piace questa ringa o lo fa solo per tradizione? No, poi sinceramente io sono andata nel nord della Svezia, nord-nord, alla loro festa della ringa, che come per noi, non so, la saga della polenta piuttosto che del fungo porcino, cioè una festa popolare attorno al cibo, che quindi appartiene molto anche alla tradizione italiana. E prima di tutto mi sono accorta quanto è importante per loro, è una volta all'anno, e poi ti insegnano a mangiarlo con non so, la cipolla piuttosto che le patate piccole, tutto il modo in cui lo mangiano loro alla fine è anche buono. Certo, non è che tutti lo mangiano tutti i giorni, infatti è un prodotto che si mangia una o due volte all'anno. Sì, sì, no, ma leggevo infatti, e non è proprio apprezzato dalla maggioranza degli svedesi. Ma e perché è un piatto a rischio di estinzione, diciamo? No, abbiamo fatto una grande battaglia in Parlamento, perché la Svezia aveva avuto una c'è un'eccezione a livello di diossine che possono contenere il cibo, che però non ha senso perché essendo un prodotto così limitato nella produzione e limitato nel consumo, è limitato nella zona geografica e comunque non è esportabile, il discorso della diossina non aveva assolutamente senso. Cioè, io penso che la sicurezza alimentare deve essere basata su dati statistici e non su ideologie. Mm-hmm. E quindi la Commissione europea per fortuna ci ha dato ragione, perché non c'è nessun rischio di sicurezza alimentare. È un piatto non esportabile perché? Perché appunto l'eccezione che la Svezia ha avuto prevede come condizione che non sia esportato. Ok, questo proprio per la presenza di diossina. Ma Corazza, è vero che lei ha minacciato di aprire una scatola di queste aringhe fermentate all'interno del Parlamento per ma farsi sì, ascoltare? Ma quando la sinistra ha cominciato a fare discorsi di paura e di fare veramente... io sono contraria alla politica alimentare basata su far paura alla gente, non basata sui fatti. Allora ho detto, vabbè, signor Presidente, in comitato, se vuole apriamo, perché avevo lì davanti una di queste lattine, sì. Se lo apriamo lei capirà subito cos'è, di che cosa si tratta, chiamerà la sicurezza, il parente, evacuerà la sala, qui tutti siamo a salire, però è anche stato un messaggio importante, perché tutti hanno capito che non è una cosa che mangi come il latte la mattina. Mm-hmm. Ok, quindi insomma, si porta dietro, al di là di un gusto, tutta una storia. Lei ha chiesto ora il marchio DOP per salvaguardare questo piatto? No, adesso non ho chiesto il marchio DOP, in realtà il marchio DOP è un problema molto più complesso e io sono sempre stata accusata qui in Svezia, con grandi dibattiti anche televisivi, di promuovere la DOP del parmigiano, mm-hmm. come un modo del sud... un complotto del sud, degli italiani e dei francesi, alla fine per fare pubblicità ai loro prodotti. Io sono 10 anni che spiego invece in Svezia che la DOP è basata su delle caratteristiche di prodotti, della loro appartenenza a un territorio, una cultura, eccetera, eccetera, come il parmigiano è per me e per molti altri. E quindi trovo giusto che anche gli svedesi capiscano e si avvalgano di questa possibilità di mettere in luce i loro prodotti. Ma non necessariamente, vediamo come andrà, non necessariamente per questo. Benissimo. Intanto in settimana abbiamo votato un rapporto sulla qualità dei prodotti in Parlamento legislativo per migliorare le possibilità dei prodotti locali e regionali, delle isole, delle montagne, eccetera, di essere messi in valore. Trovo che sia una cosa molto bella. Assolutamente. Grazie davvero, onorevole. Bocca al lupo per la sua attività politica in Svezia, ma ci ritroveremo sicuramente qui in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Buon sabato e grazie. Grazie, arrivederci. Saluti a tutti in Italia.